Ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Ancora ospiti da Gemuna del Friuli, in studio il frontman di un trio alternative rock molto interessante. A te la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, sono Simone Piva della band Simone Piva e i Viola Velluto. E con Simone Piva una prima parte dedicata ad alcuni cantautori rock americani degli anni 70, cominciando da Neil Young, che abbiamo ascoltato dal disco Everybody Knows This Is Nowhere del 1969 con il brano Cinnamon Girl. Un artista molto influente nella scena alternativa, come spesso dichiarato da suoi mostri illustri colleghi. Cosa ne pensi? Beh, penso che sia un capostipite non solo in America ma in tutto il mondo. C'è solo da imparare dai suoi dischi e dai suoi testi. Simone Piva e Viola Velluto sono assieme da 2008, una cronistoria della band. Perché avete deciso di chiamarvi così? Abbiamo deciso così perché, non lo so bene neanche io perché, Simone Piva è il mio nome e Viola Velluto volevamo dare sia un colore che un tessuto alla nostra musica e ci piaceva e l'abbiamo scelto. Ancora rock, continuiamo con Tim Buckley. Il tormentato cantautore nel 1972 incide un disco come Greetings from LA, dove abbandona gli arrangiamenti sperimentali e colora le sue canzoni con un suono molto funk e black. Da questo disco ascoltiamo Get On Top. Across the floor, and then I'm on a sing out a crying, and riflesso del figlio Jeff, l'interesse per Tim Buckley è ritornato presso le nuove generazioni. Secondo te perché? Perché si cerca di ritornare un po' al passato, viviamo tempi bui e quindi la gente non sa bene neanche cosa ascoltare, cosa andare a cercare di qualitativo, e quindi secondo me si ritorna a un passato dove c'era sicuramente della grossa qualità. Vostre esibizioni come sono andate? Quali le più importanti in termini di esperienza e le impressioni che avete raccolto dal pubblico alla fine dei live? So che siete stati anche in Francia per una serie di concerti. Sì, abbiamo avuto questa grande occasione, fortuna di suonare in questo teatro, piccolissimo teatro proprio a Montmartre a Parigi. Il piccolo teatro della gioia, e in più abbiamo fatto vari festival da quando è uscito appunto il disco il 18 aprile. Soddisfazioni fino adesso ne stiamo prendendo molte, come essere qui da voi oggi. Grazie. Come essere andati appunto a suonare in teatro a Parigi, come i vari concerti che adesso arriveranno. Vediamo che la gente, il pubblico sta rispondendo bene, sono tutti molto entusiasti e lo siamo anche noi, perché appunto il disco sta andando bene. Concludiamo dunque questa prima parte con David Crosby. Nel 1971 realizza il suo primo disco da solista intitolato If You Could Only Remember My Name, in cui l'ex Byrds comprime tormenti e dolori che stava passando in quel periodo. Da questo disco ascoltiamo Cowboy Movie. A fra poco per la seconda. We were riding back to our camp. We were feeling very fine. The air was clear and slightly damp. Celebrate the ride of the train. We were talking kind of lonely, about not having to go out soon again. Heard a hawk cry out in the night. Now you know that's a signal from young Billy, who's off central. Saying something here ain't exactly right. The draw.